Ciao, io sono Laura Voltolina e questa Podletter è Lost and Found. A Padova, dove sono nata e cresciuta, lo chiamiamo il santo senza bisogno di alcuna specifica. Il santo fa un sacco di cose mirabolanti, ma la sua specialità che preferisco è ritrovare gli oggetti smarriti. Quando perdo qualcosa, recito la preghiera di Sant'Antonio a voce alta e in latino. Non trovo le chiavi? Le cerco al ritmo della giaculatoria e ovviamente eccole. Non trovo l'auto? Sì, perdo anche l'auto, ma questa è un'altra storia. Vai con l'invocazione e voilà l'auto. Recentemente la mia amica Silvia, ciao Silvia, mi ha regalato un chip che lascio in macchina ed è collegato al cellulare. Così posso lasciare in pace il santo, almeno per questo. Eccetto, ovviamente, quando perdo il cellulare. Il mio riassunto delle ultime settimane con la partecipazione del santo passa dunque attraverso quello che ho perduto, quello che ho trovato e quello che ho ritrovato. Lost. Ho perso due orecchini a forma di piuma nera, a distanza di forse una settimana uno dall'altro. Li avevo comprati apposta per l'estate e mi accorgo ora non ho scomodato il santo per trovarli. Found. Probabilmente perché ho ricevuto in dono, da uccelli che non saprei identificare, una piuma bianchissima, una nerissima e una blu con linee nere. Tre piume stupende, vere, hanno preso il posto di due, finte. Lost. Ho perso la diffidenza del dormire in tenda. L'ultima volta erano gli anni 90 e in Grecia, per dire. A proposito, ciao Fiorenza! Found. Ho trovato notti di sonno ininterrotto come non mi succedeva da quando ero bambina e ho capito quanto somiglio a un gatto. Dammi una tenda, la più piccola possibile, un sacco a pelo e un bosco e io sarò felice. Lost. Ho perso il mio diario dell'estate. Non è più saltato fuori in nessun modo, nemmeno con l'aiuto del santo appositamente evocato, segno che è smarrito definitivamente. Found. Non ci avevo scritto granché, perché certe volte la vita si srotola come le onde del mare e si può registrare solo a posteriori. Tutte quelle pagine ancora bianche, ancora da scrivere, sono sicuramente scivolate in una dimensione futura, ma pur sempre con la mia firma in fondo. Lost. Ho perso una parte di me che a tratti mi metteva i bastoni fra le ruote. L'ho persa senza accorgermene. La chiamavo Cenerentola. Found. Cenerentola si è dileguata tra diari finiti nel futuro, piume e riposo notturno. A un certo punto mi sono resa conto che lei non c'era più, perché io ho trovato un respirare più largo e nutriente. E tu? Cosa hai perso, trovato o ritrovato? Ecco cosa possiamo trovare insieme nelle prossime settimane. In presenza, a Verona, la luna nel pozzo, 4 incontri di yoga per la donna. Perché l'ho chiamato la luna nel pozzo? A cosa serve uno yoga per la donna? Come mai proprio 4 incontri? Cosa si fa? Come posso partecipare? E risponderò a queste domande e altre durante l'incontro gratuito online lunedì 14 ottobre dalle 20.30 alle 21.30. Scopriremo insieme perché è importante e meraviglioso, te lo garantisco, essere in un cerchio di donne per 4 domeniche e condivideremo insieme una pratica semplice ma profonda. Intanto, dai un'occhiata al link e metti le date in calendario. Sono il 27 ottobre, il 24 novembre, il 26 gennaio e il 23 febbraio. Il percorso in 4 incontri non è obbligatorio ovviamente farli tutti, ma è sicuramente più consigliato. Se porti un'amica, avrete entrambe in regalo una lezione di yoga e mitologia insieme a me e potrete scegliere l'argomento. Scrivimi subito per iscriverti e per partecipare all'incontro gratuito su Zoom. Online, yoga e mitologia in diretta tutti i martedì di novembre dalle 19.30 alle 21 oppure con registrazione. Il percorso di novembre è Elementale Watson, per conoscere le storie degli spiriti della natura e integrarli nella nostra vita. Sei curioso? Sei curiosa? Rispondi a questa mail per avere informazioni. Se non vuoi aspettare fino a novembre, ci sono le 12 lezioni di yoga e mitologia della scorsa stagione, Lampi di Genio, In Principio e Il Cuore del Cielo. Scrivimi per ricevere i link. Ti serve ritrovare l'allineamento tra gli obiettivi per il futuro e la voce della tua anima? Sei confusa o confuso sulla tua direzione? La bussola interiore è il percorso perfetto per trovare chiarezza interiore e muoverci poi nel mondo lungo la nostra strada. Si tratta di 7 lezioni registrate e un incontro individuale con me da fissare quando le avrai completate. Iscriversi è semplicissimo. Rispondimi e ti mando il link. Le parole che ho scelto per noi oggi sono le ultime che avevo riportato sul diario perduto. Le condivido con te perché fanno parte di una poesia bellissima che amo molto e anche perché, alla fine, quello che conta resta, anche quando perdi il diario. La poesia è «Nel mondo ci sono suoni» di Chandra Candiani e dalla sua raccolta «La bambina pugile». L'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente eppure senza motivo apparente. Poi, allargando le braccia, si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce insieme nello spazio di carità tra te e l'altro. Ti abbraccio esattamente così, Laura.